erano i Conscience Pilot, se si pronuncia così, dopo accettiamo anche delle critiche su questa cosa. Gelecomo Open Cast numero 1, è passato un po' di tempo dal numero precedente, ma siamo contenti di essere ancora qui. Oh yeah! Siamo sempre Fabrix e Lorix. C'è sempre. Stasera abbiamo mangiato una pizza, ragazzi, che guardate, cioè una cosa da, sì, infatti da, ti chiedo, da ricordare. Ti chiedo di parlarvi un po' lontano perché... Sì, era una fantastica pizza a tonno e cipolle la mia versus una pizza con Brewster di Fabrix. Sì, stiamo bene, stiamo bene. Va tutto bene. Allora, ce la possiamo cavare stasera. Allora, numero uno, stasera abbiamo recuperato un po' di notizie, giusto perché voi tanto lo so che non andate a leggere, allora le diciamo, diciamo noi. Portate il vostro lettore di tre in giro, ne parliamo. Allora, sì, metti, non so, la mattina esco e vado al lavoro, ecco, per dire. E non ho letto le notizie, è una settimana che non leggo le notizie, mesi perché dato che l'ultima la cosa che mi stupisce è che la mattina esci e vai a lavorare. Sì, un po' stupisce anche a me. Più che altro, no, l'idea è che la mattina quando esco a lavorare la cosa che c'è in mente è le notizie. No. Queste cose non si sanno. Esatto. Niente, allora, per chi non se ne fosse accorto, forse non tutti sono al corrente del fatto che ultimamente la Novel ha rilasciato la prima versione di XGL. Ragazzi, questa è bella di botto. Ah, sì. Questa mi piace veramente. Sinceramente ho provato a installare. Io solo ho visto, ma... XGL è questo plugin per Xorg, Xorg 7. Questo plugin che si appoggia su OpenGL permette di fare un sacco di belle cosine che ho visto gente non ci credo. Sì. Queste trasparenze, queste belle cose trasparenti. Sì, le finestre che ballano, che hanno figato. Le finestre fantasma, si vede tutto dietro, davanti, un video in trasparenza. Mi piace il desktop virtuale a cubo. Ah sì. Quello mi piace un casino, mi piace anche il task switcher, quello alt tab, insomma. Quello fatto con l'anteprima live delle finestre. Tu fai alt tab, ti vedi anche i video, li vedi anche tutte le concine. E c'è anche l'esposé, c'è anche stessa versione, no, quello invece te le mette proprio sette in fila con le concine. È bello. Belle cose. Ma ragazzi, se questa mi va in porto, cominciamo a fare una pubblicità di quelle che la gente comincia a dire lo voglio. Sì, tu andrai in giro per strada e sentirai è così, perché io adesso mi gaso con la console, però gli altri mi guardano come dire, ma che sta facendo questo? Esatto. No, però vuoi mettere la console trasparente, che balla in tempo reale, cioè mentre la muovo, blu. Esatto. Poi prova a scrivere mentre la muovi, non è facile, adesso balla. Ok, quindi siamo tutti contenti di questa cosa. Io ho provato, cioè ragazzi, noi stiamo cercando di trasmettervi questa emozione dell'XL, andrebbero viste. Prova a trasmettergliela. Diamo un link. Prova a trasmettere l'emozione. No, l'emozione, con lì è l'effetto, l'emozione è. Basta. Ok. Io sinceramente ho provato a installarla, Sì. Stavo provando a installarla su una Arc Linux. Sì. Ho avuto dei seri problemi al momento. Prima ci metteva tipo un minuto a partire, adesso mi ci mette tre. Senza aver installato XGL. Però è interessante. Ho visto che ci sono guide per tentarlo nuovo, cioè sì, diamo tempo al tempo. Poi diciamo la versione tipo 0,01, una cosa così. 0, una cosa tranquilla. Proprio la prima cosa. Però ho visto che per chi ha Gentoo ci sono già delle guide come installarla. E anche ho visto anche per l'Ubuntu. Sì. Guide su come installare Lambda. Insomma, a me questo razzismo informatico non piace. Io, perché Enlightenment mi funziona solo sotto Gentoo e gli altri no? Ma è vero, c'è anche su Arch Linux. Ecco, vedi. Ero disinformato. Stai attento. Io sono un povero utilizzatore delle versioni più facili. La Mandriva. È bella la Mandriva, però. Mi piace il nome a me. Mi piace molto il nome. Sì. Come suona? Mandriva. Mi piace più di Mandrake. Questo Mandrake, vabbè, c'è in mente il mago con il cappello. Che sei? Mandrake. Che sei? A me piaceva Mandrake. Mandrake. Ho capito. Era un rafforzativo di Linux, secondo me. Mandrake. È vero. Okay. Infatti, molta gente secondo me ha cominciato a usarlo proprio per quel motivo lì. Mandrakis. Cioè, uno deve scegliere tra Ubuntu e Mandrakis. Ma anche Ubuntu. Ma anche Ubuntu. Sì, dopo. Se seguiamo dopo. Sì, dopo passo. Va bene. Devi stare tranquillo, però. Devi stare only calm. Va bene. Adesso non la tiro più fuori l'aria. No, perché con la pizza di prima. E niente, quindi ci stiamo divertendo anche stasera. Sì, stasera ragazzi, è mi raccomando, se ci state ascoltando, per favore non ridete troppo perché disturbate i vostri vicini di Pullman. Ecco, poi li prendo per scemi, sì, ragazzi. Sì. Già voi prendete per scemi noi. A me prendo sempre per scemo quando sì, ma non c'è bisogno che ridi. Ma non perché so, le cuffie che so, uso quelle degli anni 80, ma sono gigantesche. Allora dicono, mi prendono per scemo, cioè non ho capito io. Ma non è per la qualità sonora dell'auricolare con la cuffia anni 80. Ascolta, ma sul bus sì, è un po' ingombrante quando la devo mettere lì. Ascolta, cuffia anni 80 e sguardo perso nel vuoto? Molto perso nel ho vuoto. Ho capito, allora sì, c'è un perché. Se ho i capelli conati, ragazzi, se vi interessa. Manca solo il cappello al contrario e sei a cavallo. Ok. Quindi andiamo avanti. Siamo rimasti già abbastanza sulle cibi. Esatto. Volevamo parlare di gelato. Io parlerei di gelato. Ecco, sì. Parlerei di gelato perché okay. dopo la pizza un gelatino ci sarebbe un bel sorbetto, ma purtroppo nel suo frigorifero non c'è mai niente. Non c'è niente perché è il vuoto. Sembra una partizione formattata. Appena formattata. Sì, è vero. E che è un po' frammentato, devo dire. C'è solo la cartella Brustel. E tutto il resto. Ma non stiamo qua per parlare del mio frigo, anche perché non è open source, è mio. Stavamo parlando di gelato. Parliamo di gelato. Hanno sviluppato una società che sì. Adesso vediamo di fare anche i nomi perché non facciamo giusto. Facciamo dei nomi. Fai un nome. Mario mi fa The Roma. Mario sì, con Mandrake. Vabbè, adesso non la trovo comunque. Mario, sei un drago, sei. eravamo forse su delle news un po' più. Qua. Comunque, è un gelataio di Nomelino. Noi ringraziamo sempre Zio Buddha che sì, ci offre un sacco di risorse. Ringraziamo Zio Buddha e tutti quelli che ci postano. Ecco, esatto, ci postano. Quindi leggiamo adesso. Quindi anche il mio postino volevo ringraziare perché mi posta. No, questa era. E perché non ho gli applausi registrati? Questa li metto dopo. Non era bella. No, dopo li metto in post-produzione. Dopo li mettiamo in post-produzione. Okay. Quindi qua leggiamo da osblog.it. OSS che sta per? Non lo sappiamo. Open Sound System. Il nome di un gruppo sembrerebbe Open Sound System. Questa la tagliamo adesso, se non ci fregano. Se no ce la fregano. Esatto. Quindi OSS suppongo sia Open Source Software. Va bene. Quindi hanno fatto questa macchina automatica del gelato. Sì. E quindi basata. Nubella si chiama. Nubella. È una macchina esatta, un distributore automatico equipaggiata con Red Hat 9. Che niente, avrà un bello schermo LCD touchscreen, ognuno potrà scegliere il suo bel gusto di gelato e la macchina glielo tira fuori direttamente sul cono. Una cosa divertente è questa macchinetta del gelato, diciamo. Gira su un AMD 2006 a 1 giga e 3, 512 di RAM e una disk da 40 giga. Ora, probabilmente avrà un database gelati da 30 GB. Il gelato se lo devi fare lo fai bene, perché non è facile farlo. Esatto. E quindi cioè, io per esempio col mio computer che non ci arrivo a queste specifiche non potrei mai fare gelato. Però il tuo computer fa il caffè. Il mio computer fa il caffè, ho anche il portatazza. Ah, fantastico. Sì, lo schiacci qui fuori il portatazza. Ma l'altro che cosa serve? L'altro quello col play. No, non ce l'ha. Ah, non ce l'ha. C'è proprio il portatazza, c'è il tempo a girare. Sì, gira. Metti sulla tazza e gira. Sulla tazza e gira. Shaker anche. Shaker, se mi faccio... Non è che la tazza c'è solo il caffè, magari mi faccio un bel cocktail. Però tu si chiama anche un caffè. E quindi insomma io mi chiedevo un po' perché tutte queste AMD, risorse hardware per del gelato nel secondo tempo. Abbiamo anche un secondo tempo. Facciamo andare una canzone di cosa parliamo nel secondo tempo? Non lo so, possiamo continuare a parlare della macchina del gelato? No, possiamo parlare di Palladium. Possiamo parlare di GPL 3? Parliamo di roba seria. Ti sei preparato sullo GPL3? Sono preparato alla gara. No, no. Allora parliamo di Palladium. Palladium. Parliamo di sì. Trusted Computing, per l'esattezza. Dillo così che mi dà quel secondo. Trusted Computing. Bravo, bravo. Ma allora hai studiato? The pen is on the table. Now the pen is under the table. Va bene, basta. Barshi Tonsai, sempre dell'ottimo blues, sempre in Creative Commons. Mitico, mitico, grandissimo. Sei contento di essere qua stasera a sentire questa bella musica? Sono molto contento, very contento, grandissimamente contento. Bravissimo. Se vogliamo generalizzare, contento. Quindi, sempre, basta, va bene, abbiamo capito il concetto. No, perché, vai, basta. Siamo tornati, ci aspettavate con ansia, questa seconda parte dell'Open Cast del GL. La prossima volta ti faccio tutte queste frasine registrate così sei contento. We'll be back. Torneremo. Va bene. Ma questo lo devo dire alla fine. Sì, esatto. Okay. Fai anche un po' paura. Scusate. Va bene. Possiamo rientrare nel... Mi sto allenando. Ok. Okay. Rientriamo. Rientriamo nel clou del discorso. Ok. Siamo sempre Open Cast. Un Open Cast, esatto. Open Cast GL Como. Si parla sempre di mondo dell'informatica. Sempre informatica, sì. Linux e Linux, open source. E eccetera, eccetera. E bravo. Okay. Numero uno. Quindi, dovevamo parlare di trusted computing, ok? Esatto, parliamo di Palladium, parliamo di DRM. DRM ha un sacco di nomi in pratica per mettere confusione, perché sappiamo come funziona la cosa, no? Non pubblicizziamola troppo. No, trusted computing è la faccia un po' più carina, che dice, ah beh, il computer è sicuro. Però andiamo a vederlo un po' più da vicino, andiamo a vedere più da vicino quello che riguarda il mondo open source e Linux. Allora, Cosa sta succedendo? Sto diventando serio. Stai tranquillo. Facciamo un riassunto. Stai only calm. Only calm. Cosa è successo? Cosa è successo? In pratica c'è una scoperta, se la vogliamo mettere sotto questo punto di vista, che il kernel Linux incorpora già da qualche tempo, a quanto pare dalla versione 2.6.12. Stiamo leggendo da bicocca.net, poi tutti i link alle notizie che vi stiamo passando le troverete sul sito. Vabbè, io lo dici così, io stavo facendo il figo che sembrava che sapessi tutto. Dico, abbiamo trovato la notizia su... Ah, però l'abbiamo trovata. Sì, vabbè, da qualche parte, non è che te la sogni la notte. Ah, vai. Sì, va bene. E quindi, ok. I driver per il chip Fritz che in pratica è quel chip che per ora è prodotto da Infineon, Atmel, eccetera, che in pratica andrà a rendere a quanto pare sicuri i nostri computer, mettiamola sotto questo punto di vista. Il fatto è che questo chip può potenzialmente tutto a posto. Sono troppo, scusate per il tono della cipolla, ma purtroppo sono cose che succedono. Adesso mi hai fatto perdere il filo del discorso. Vai, te ti perdi mi sono perso. Allora, stavo dicendo di parlare del chip Fritz. In pratica questo chip ha la possibilità di fare eseguire da remoto determinate cose sulle vostre macchine, o comunque non far eseguire determinate cose sulle vostre macchine, come ad esempio potrebbero non essere più eseguibili degli MP3, dei video o addirittura dei documenti. Quindi c'è la possibilità addirittura di una censura effettuata da remoto online. E per quanto riguarda il mondo Linux, appunto, c'è questa scoperta che il kernel incorpori già da qualche tempo i driver, e questi vengono compilati di default per questa tecnologia. Il problema è che la cosa non deve stupire più di tanto, perché tutto l'hardware del futuro dovrà integrare questa tecnologia. Se vogliamo fare qualche nome, ad esempio abbiamo il Pentium D, che la integra già, addirittura integrato nel processore, quello che adesso fa il chip Fritz su altre macchine, su altro hardware. E se vogliamo approfondire il discorso, c'è una news che ho letto su un sito di hardware che dice che la Intel lo sta dando uno sconto del 20% per il Pentium D. Ecco, stanno mettendo giù le basi. Bisogna diffondere in qualche modo la cosa, ecco. Comunque del supporto di ARM in linea, a parte il fatto che ci sono applicazioni come l'Acrobat Reader che già lo fanno a prescindere, quindi non è una cosa che stupisce forse più di tanto. Del resto, se un sistema operativo che vuole comunque essere anche arrivare ad essere un'alternativa desktop, se poi ho dei problemi a leggere, che so, il DVD uscito in qualche maniera, esatto, bisognerà purtroppo o ti ascolti solo musica, è necessario uniformarsi, o ci ascoltiamo solo le nostre Creative Commons nella speranza che sopravvivano a questo punto. Stiamo diventando molto serio, devo dire. Sei quasi tragico. Tragico, quasi mi confondo, mi perdo via. Sì, non sembri neanche più tu. E questo è l'effetto. Chi sei? È la cipolla. È la cipolla. Quindi tirando un sunto della cosa. Ci ha fatto diventare tristi questa cosa. Alla fine. A noi dispiace. Però dicono che è necessaria per la pirateria. Se no non ce la togliamo più. E poi mi censura tutto quello che scrivo. Non vale anche bene. E questa cosa qui, tornando un attimo seri, ha anche scatenato un po' quel dibattito, diciamo, questa cosa dove Linus un po' si oppone, diciamo, non è, dice che non prenderà in considerazione comunque un'eventuale nuova GPL3, per come fino adesso è ideata, dove sono banditi completamente qualsiasi sistema di DRM. Qui c'è la solita separazione del mondo open source, cioè tra l'idealista puro, ecco, e invece quello che chiamano il pragmatico, quello che comunque si interfaccia col mondo, forse. Esatto, una sorta di equilibrista, perché. Sì, forse deve essere un po' più equilibrista. Esatto. Va bene. Non è facile nessuna delle due cose, secondo me, però non è facile. No. Né essere equilibrista né essere l'idealista. Tu cosa sei? Io sono per le scritte sui muri. questo si chiama cambiare discorso. Questo si chiama cambiare discorso. A casa mia questo si chiama cambiare discorso. Questa sarà la prossima news. No, io sono un equilibrista, devo essere sincero, perché non ce la faccio essere. Sono per i compromessi. Magari sbaglio, però dipende anche da dove ci troviamo. Ad esempio, il chip Fritz. non è sbagliato di fondo, perché in qualche modo è giusto che la casa discografica, la casa cinematografica tuteli i suoi contenuti digitali eccetera, ma non è giusto mettere una tecnologia che può potenzialmente censurare un documento che parla male di un leader politico piuttosto che insomma cose di questo genere, ecco. Oppure addirittura un utente si va a tirare giù un MP3 e il suo computer, che dovrebbe essere sicuro, lo va a denunciare in automatico, lui non sa niente, ma sicuro per chi? Per chi vende o per, sì, o è sicuro per gli altri. A quel punto cade anche un po' forse la definizione del tuo computer, non è più il tuo non computer. È più il tuo computer, chi lo usa più? Quindi ci vuole un equilibrio, facciamo un sistema fatto bene, magari abbassiamo i prezzi così quello... andiamo a comprarci tutti l'originale e non ci... questo era un po' anche quando c'è stato l'evento Creative Commons a Torino diversi mesi fa, non ricordo esattamente la data, è nato un dibattito anche su questo argomento. In sala c'erano rappresentanti di un po' tutte e due le parti, diciamo, del da parte dei discografici e dalla parte dell'utente. Comunque c'è gente anche nel movimento DJ in Creative Commons che discutevano di questi fatti, e venuto poi appunto a parlare anche del problema dei prezzi, cioè, comunque qualsiasi cosa secondo me ci marciano un casino, è lì il problema, e bisognerebbe puntare più sulla quantità del vendita, forse abbassando un po' il prezzo quando vendi. Anche perché in questi anni è aumentato particolarmente, io ho fatto una piccola ricerca, insomma, se dovessimo andare indietro nel tempo, ad esempio negli anni 70 un disco costava forse quelli che sono adesso 8 euro, ecco, un disco completo, un singolo si pagava su quelli che sarebbero adesso sui, cioè i 6 euro, insomma. E sai com'è, quando vendi comunque poi dopo puoi fare una profitto. Puoi fare, sì, ne approfitti, perché poi alla fine il concetto è tu sei una casa discografica, vendi il disco di Pinco Pallino, che è la rockstar del momento, metti, e la vendi solo tu, capito? Tu sei comunque una casa discografica che hai comunque un discreto potere sui media, sulla televisione, sulla pubblicità, addirittura su buona parte dei politici anche, perché poi si vedono certe cose che vengono fuori fatte apposta per mirate per proteggere i loro cioè, sì, beh, certo. Che poi è chiaro che ce li hanno anche loro, hanno i loro, cioè devono fare i loro cose, però hanno secondo me comunque una posizione per la quale è difficile opporsi forse in maniera decisa a come fanno andare il mercato, secondo sì, me. Il discorso del trust e compiti comunque è abbastanza complesso, si potrebbe stare qua a parlarne per tutta la sera. Ma non ce l'abbiamo, non c'ho abbastanza spazio sulla già, disc per già siamo diventati troppo seri qua, la cosa mi preoccupa. Non ce la fai. Sì, effettivamente ti vedo un po' pallido. Pallido. Sì, magrito. Ma questa è la mozzarella, non so che mozzarella ci metto con la pizza lì. La prossima volta devo prendere quella più leggera. E poi prendi tonno e cipolle. Vabbè, avevo fame. Vabbè, ma fame. Poi sono magrito e allora devo mangiare. Mangiare. Ok. Quindi passiamo oltre a qualcos'altro, perché ormai questo argomento magari poi se qualcuno ha da farci commenti, se avete da far commenti, non so, sul sito troverete le informazioni che potete mandarci, le uova, qualcosa. Mandatecelo per posta, non marcio gentilmente. No, anche se volete lanciarci delle uova, voi mandate per posta, poi ci attiriamo addosso noi. Lasciamo un indirizzo email e mettete come allegato. Esatto, poi ci attiriamo addosso noi. Tanto ormai con tutta quella roba che gira, abbiamo i filtri noi. Sì, giusto. Okay. Devo controllare perché mi si intasa sempre il filtro. Vedi che ultimamente rimangono tutta quella roba lì, sai, tutte quelle dentro nel filtro, un casino poi. Devi usare il gel, quello là muscoloso. Com'è? Sì, quella roba lì, che metti giù. Dovresti provare una roba del genere, ecco infatti. Allora, torniamo alle cose. A mene. Chi? Oh, te meno io, te, ma che vuoi? Te devo menare. Allora, andiamo sulle cose simpatiche, che dato che stasera abbiamo avuto una digressione seria, però vogliamo fare simpatici stasera. Ma io anche perché siete sul bus, dovete fare queste quattro risate. Esatto, fare un po' questa figura di quello che rido da solo. Che c'ha la signora a fianco, che c'ha le borse con le verde, che sta tornando dal mercato. vi vede lì, fate essere due risate. C'è la signora che trova il mercato di base alle verze nelle borse. Ma sì, di solito esce qualcosa di verde. Io spero che siano verze, poi non lo so, potrebbe essere altro. Non lo voglio sapere. Potrebbero essere finocchi. Potrebbero essere zucchine. Anche. Infatti il finocchio è bianco. Vabbè. Allora, o signora che torni dal mercato con le zucchine nella borsa. Allora, se c'è qualche signora che ascolta il nostro podcast, che casualmente per carità, magari, le signore amiche nostre, stava cercando qualcosa di strano su internet, diverso, è finita, è incappato per qualche... ci faccia sapere. Esatto, oppure voi stessi che in questo momento siete sul bus andando a scuola o al lavoro, ci state ascoltando, e vicino a voi c'è la signora con le borse. Esatto. Chiedetele, scusi signora, ma ha comprato le zucchine? A che lei gli risponderà? Ma tu fatti... esatto. I tuoi. Fatti le zucchine tue. E comunque mandateci una mail e fateci sapere. Ok. Commenteremo le risposte nel prossimo puntata. Va benissimo così. Quindi, cose facete? Scritte sui muri. Cosa facciamo? Perché prima dicevo di scritte sui muri, ma non a caso. Perché tu sei il mago dell'aggancio, diciamolo. Cioè, mago dell'aggancio, grazie. Ok, quindi scritte sui muri, in pratica che cosa è successo? C'è questa notizia, io spero sia vera. È vera. Non lo so sinceramente, però la diamo per simpatica. La diamo per simpatica, a quanto pare un buon tempone. Un simpatico teppista, direi. Ragazzi, non si scrive sui muri, però il messaggio non era malissimo. Si scrive sui muri, sono nelle zone dedicate a... Ah, ecco, qua è stato scritto su un ponte, che a mio avviso era anche abbastanza brutto, quindi l'ha anche abbellito, se vogliamo. Non lo so, diciamo che poteva migliorare il carattere, forse. Poteva migliorare il carattere. Un bel comics, era più simpatico. No, comics. No, io avrei usato un carattere più... Ma comics è proprietario. Ma anche se è comics. È dall'altra parte. Sì. Non lo so. L'hanno usato, ma dall'altra parte del ponte. C'è una scritta dall'altra parte del ponte. È scritta in comics. Vabbè, quindi, ritornando al discorso principale, la frase è questa. Il futuro è solo Linux. Voi passate in autostrada e vedete... Non si sa bene dove... Non lo so, un ponte da qualche parte. Infatti non è notizia molto, perché... Con questa bella scritta, il futuro è solo Linux. Bene. Beh, io insomma non lo so. Beh, forse solo, cioè, secondo me no, c'è ancora, ragazzi, c'è ancora speranza, si può ancora creare una famiglia, possiamo ancora andare avanti, possiamo dare l'aiuto anche a questa persona. Il pianeta non è spacciato, non vi preoccupate, cioè il futuro non è solo Linux. Linux è importante. Bravo, ma non è, solo lui. Ricordiamoci comunque il fine ultimo di tutto ciò, che è la dominazione del mondo. La dominazione del mondo. Quindi è giusto che sia solo Linux. Ah, solo Linux. Ma stavamo facendo la tesi contraria. No, ma dico, non dimentichiamoci quello che Linus dice. Il fine ultimo di Linux, sì, è conquistare la dominazione del mondo. Ah, questa è la mia nuova. Come mai tu, scusa, dove vivi? Non lo so, io sono qua dietro. Ah, qua dietro l'altro? Sì. Ma va, che storia. Sì. Vieni a piedi, quindi. No, ma non parliamo di questo. No, se stava... Magari diciamo qualche cavolata, mi vengono a cercare. Non mi venite a cercare, vero? Ma perché tu che abiti in via... No. Al numero... No. Ok. Quindi, insomma... No, il futuro secondo me non è solo Linux. Sì. Io sinceramente spero che non sia solo Linux. Degenerando. Sì, no, adesso volevo fare un piccolo discorso serio. Okay. Perché secondo me non è solo Linux. Sì. Cioè, spero che ci sia, che un giorno venga fuori un'alternativa, perché è solo Linux, cioè voglio dire, comunque Linux è un bel sistema, eh? Certo. Però voglio dire, non penso che nel 2100 ci sia solo Linux. Cioè, capito? Infatti ci saranno, cioè, pietre, bastoni. Se avanti, sì, no, quello era il ritorno al cosa pianeta delle cimiere. Quello, ritorno al pianeta delle cimiere. È una fusione di film. Sì, c'è uno in macchina che va, quando raggiunge gli 88 miglia all'ora, salta nel pianeta delle cimiere. Esatto, il ritorno al pianeta delle cimiere. E mentre salta, cioè, si vede proprio tutto il salto nell'iperspazio. Esatto, poi arriva al pianeta delle scimmie. Esatto. Va in zona Plaid e arriva nel pianeta delle scimmie. Ok. Questa è la zona Plaid, poi questa me la segno. Ecco, perché mi è piaciuta. Ma non ti ricordo dove tratta. Casualmente allora potrebbe arrivare un dinosauro, anche se è sul pianeta delle scimmie. Esatto. Degenero totale stasera, comunque. Sì, sì, piacere, ragazzi. Se volete tagliare, no, tagliate pure. Sì, se volete spegnere adesso. Adesso stavo facendo un discorso serio. Fammi sto discorso. Sì, no, è quello che dicevo. Cioè, ok. Giustamente lui, nella sua serietà, dice nel 2100 non è che c'è solo. Ci saranno anche i nipoti, ci saranno. I nipoti di Linux. I nipoti di Linux, i derivati. Linux e i suoi derivati. Linux e i suoi derivati. Non era un gruppo Linux shakerato. non so, master, basta. Basta, basta. Scusate, ci hanno masterizzato il cervello. Ah, quindi tu ce l'hai, ce l'hai copiato il tuo? Sì. Il problema è che vuol dire che ce n'è in giro un altro come te. Oddio, forse. È lì la cosa grave. Beh, direi che di caga volata in cavolata. Siamo arrivati all'ultima cavolata. Diciamo l'ultima cavolata della serata. Dai, vuoi dirla a te? No. Dai, a te. No, adesso no, perché non so che cosa. Non so più cosa dire. E allora, che l'ultima cavolata da dire? Ne ho detto abbastanza. Posso fare una chiusura? Facciamo una chiusura. Bene, allora chiudiamo qua il numero 1 di Opencast, il podcast tecnologico Linux e open source del GL Como. Molto serio. Una puntata, diciamo, un po' alternativa. Forse per una carenza di nostra. Il segno della cipolla del tonno. E del Brewster. Prossimamente però ci organizziamo meglio. La prossima volta facciamo. Il numero 2 scintille, quindi continuate ad aspettarci. Scintille, se non saranno scintille sarà champagne. Se no fuochi d'artificio. Olè. E via. E chi ne ha più ne metta. Vi ricordo www.glcomo.org. Troverete il nostro sito. Bene. Vi ricordo GL Como, siamo anche .org, siamo .net e .org. Ci stiamo espandendo. Sì, dominazione del mondo, sempre lì. Ti spiezzo in due. Basta. Cosa stavo dicendo? Mi hai interrotto mentre parlavo. Stavo pubblicizzando il sito glcomo.org o gl-como.org o gl-como. Il trattino, non l'underscore, il meno. Sì, ma quando scrivi non fai fare GL-como. Cosa fa GL-como? Allora nonna, fai www.gl, se dico trattino basta, lì la perdo. E devo dire meno como. Secondo te? Anche lei mi dice, ma non potevi stare attento a non infilarti la mano nella portiera della macchina? Ecco, come facevo io, non potevo scrivere e ho dovuto chiedere. No, ma la mia domanda è quante nonne ci stanno ascoltando? Lanciamo anche questo. È un messaggio. La prossima puntata, un sondaggio. La prossima puntata, giusto. Lo teniamo per la prossima puntata. Va bene. Un sondaggio a puntata, mi piace questa cosa. Bella. Niente, glcomo.org, glcomo.net, gruppo Linux Como. Ci troviamo tutte le settimane quasi. Quasi sempre, diciamo. Sì. Tanto se ci state ascoltando sicuramente lo sapete. Ecco. E quindi cosa spinta? Saluto a tutti gli amici del GL. Ciao. Mitici, grandissimi. Un saluto soprattutto al Prez, che stasera poteva essere qua con noi, The President. Ma ha saputo del tonno e le cipolle di Loris. Ci sono stati problemi di carattere generale. Esatto, diciamo così. Quindi niente. Quando ha sentito parlare di cipolle ha detto: no ragazzi, mi spiace, io non ci sto. Parole dure. Chiudiamo qua, basta. Chiudiamo con un pezzo di Brad Sachs, sempre in Creative Commons. Il pezzo è I Think I Started a Trend. Yeah. Everybody said they never would believe me. I paid no attention to the very end. Oh yeah, I think I started a trend. Believe me, I paid no attention to